e la memoria di Dino Pesole. La scorsa settimana abbiamo rievocato una delle più grandi battaglie della storia, combattuta 200 anni fa, il 18 giugno del 1815 a Waterloo, una località che si trova a 20 km a sud di Bruxelles. Una battaglia epocale in cui si affrontarono da un lato le armate francesi guidate da Napoleone Bonaparte e dall'altra l'armata inglese comandata dal duca di Wellington e l'armata prussiana guidata da von Blücher. Torniamo oggi su quell'evento che segnò la definitiva caduta di Napoleone, consegnò di fatto la Francia a un trentennio di isolamento dallo scacchiere internazionale e ridisegnò gli equilibri geopolitici in Europa. Lo facciamo in compagnia del professor Alessandro Barbero, storico e scrittore, che a questa battaglia ha dedicato un libro pubblicato dalla Terza dal titolo La battaglia, storia di Waterloo. Buonasera professore e benvenuto. Grazie, buonasera. L'inizio della battaglia era stabilito per le 9 del mattino, ma l'imprevisto, sotto l'aspetto di un temporale notturno, aveva trasformato il terreno in un pantano che impedì l'immediata messa in batteria dei pezzi d'artiglieria francesi, obbligando così Napoleone a rinviare l'attacco alla tarda mattinata. All'una del pomeriggio, quando il primo corpo d'armata di d'Erlon si apprestava all'attacco principale al centro, contro Mont-Saint-Jean e L'Haye-Sainte, comparvero in lontananza, oltre i boschi, i 30.000 prussiani del quarto corpo d'armata di von Bülow, guidati dal maresciallo von Blücher in persona. Nonostante tutto, l'imperatore era convinto di poter annientare Wellington abbastanza rapidamente per potersi rischierare contro il nuovo nemico ancora lontano. Allora, professore, cominciamo da cosa determinò effettivamente la sconfitta della Grande Armata, cioè si è molto enfatizzato l'aspetto dello scontro diretto tra Napoleone e il duca di Wellington, quando poi in effetti fu decisivo l'apporto dell'armata prussiana. Allora cerchiamo di ristabilire un po' come dire, gli elementi storici accertati. Sì, perché la memoria di Waterloo è stata dominata dalla letteratura inglese, dalla memorialistica, dalla storiografia inglese, e gli inglesi hanno sempre parlato della loro vittoria sminuendo il ruolo dei prussiani. In realtà la battaglia di Waterloo fu vinta da entrambi e da soli né gli inglesi né i prussiani potevano vincerla. Un ufficiale inglese paragonò la battaglia di Waterloo a un corpo a corpo fra due pugili. Pesta finché uno dei due non cede, ed è una bellissima immagine, ma in realtà i pugili sul ring erano tre. Nel momento in cui è salito sul ring anche il pugile prussiano, il pugile francese non aveva più speranza. In realtà poi non era proprio uno sparring partner, era un pugile di primissimo piano. Sì, diciamo pure che l'esercito francese era superiore anche a quello prussiano, le truppe erano migliori. L'esercito prussiano aveva una grande tradizione, ma in realtà in quel momento era fatto di giovani reclute. Però il problema è che uno contro due, anche se tu sei un peso massimo e gli altri due sono dei pesi medi, non ce la puoi fare lo stesso. Sono stati scritti centinaia di libri sull'aspetto prettamente militare della questione, ma vorrei approfondire con lei anche l'aspetto, come dire, politico, perché la sconfitta di Napoleone in effetti poi determinò gli equilibri geopolitici in Europa per gli anni successivi. Ecco, si può tentare di ricostruire un po' quello che avvenne subito dopo? Come sappiamo, Napoleone, insomma, fu da allora in poi condannato alla sostanziale irrilevanza, poi andò in esilio e morì nel 1821. Certo, ma noi sappiamo che insomma la Francia tornano i Borboni, è un regime impopolare, tanto che durerà solo 15 anni. Nel 1830 c'è la grande rivoluzione di luglio e i Borboni cadono definitivamente in Francia. A Napoli eppure tornano i Borboni, Gioacchino Murat viene fucilato, nel Lombardo-Veneto la dominazione austriaca è schiacciante, l'Austria è membro della Santa Alleanza, conduce una politica assolutamente reazionaria. Ora immaginiamo che Napoleone avesse vinto, con un Napoleone ancora sul trono in Francia, con Murat sul trono di Napoli, in particolare la storia d'Italia sarebbe stata diversa, il liberalismo del Risorgimento probabilmente si sarebbe affermato ancora prima. E cosa rappresenta, professore, nel, nell'immaginario collettivo della Francia, che ha costruito, come dire, la sua forza sulla grandeur, la clamorosa sconfitta di Napoleone. Rappresenta una specie di convitato di pietra di cui non si parla volentieri. Sì. Lei sa che nel giugno di quest'anno le celebrazioni per i 200 anni di Waterloo hanno attirato in Francia, in Belgio, mi scusi, un'immensa quantità di rievocatori, di turisti, ma il governo Hollande ha rifiutato la partecipazione ufficiale francese a queste rievocazioni. E è abbastanza impressionante il modo in cui tuttora in Francia anche il pubblico è riluttante a sentir parlare di Waterloo, preferiscono parlare di Marengo, di Austerlitz. È un po' come Caporetto per l'Italia, forse? Una differenza però, perché noi italiani siamo un popolo più sano da un certo punto di vista, o più autolesionista, amiamo parlare dei nostri disastri, dei nostri errori, quindi su Caporetto in Italia si sono scritti molti più libri che non in Francia su Waterloo. E quanto all'aspetto più prettamente militare, sia testimoni ma anche storici hanno insistito molto sul presunto errore tattico, se vogliamo, di Napoleone, che per effetto del temporale che si abbatté quella notte sulla piana di Waterloo ritardò l'attacco. Ma è così decisiva questo ritardo? Forse l'esito della battaglia sarebbe comunque stato scritto alla luce delle forze in campo. Forse no, forse è vero che quello è stato un fattore decisivo, però, come dire, l'esito di una battaglia è sempre la concatenazione di tanti fattori e ci vogliono tutti per produrre un certo risultato. Se Napoleone avesse attaccato quel mattino presto, molto probabilmente avrebbe vinto, avrebbe potuto sbaragliare l'esercito di Wellington, che dopo qualche ora non ce la faceva più a resistere. E invece Napoleone ha aspettato dicendosi, vabbè, tanto appunto è giugno, le giornate sono lunghissime, ho tutto il tempo, lasciamo rassodare il terreno in modo che la mia artiglieria, la mia cavalleria possano manovrare. E questo è un errore solo perché poi nel pomeriggio i prussiani sono arrivati e appunto il pugile prussiano è salito sul ring. Se i prussiani non fossero arrivati, questo non era un errore. Ma facciamo insieme, professore, con i nostri ascoltatori un esercizio di storia controfattuale, così giusto per immaginare cosa sarebbe potuto accadere in caso di vittoria di Napoleone. Cosa sarebbe accaduto? Beh, dunque, ben inteso, poteva benissimo accadere che Napoleone sconfiggesse gli inglesi a Waterloo. Dopodiché sarebbero arrivati gli austriaci e poi sarebbero arrivati i russi, che nel frattempo stavano attraversando l'Europa a piedi per andare anche loro a invadere la Francia. In altre parole, la cosa più probabile è che anche vincendo a Waterloo, Napoleone prima o poi avrebbe perso un'altra battaglia un mese dopo, due mesi dopo. Se invece immaginiamo che le cose andassero come sperava lui cosa sperava? Sapeva benissimo che una vittoria non basta mai, dopo bisogna combattere sempre un'altra battaglia, ma lui sperava che stavolta i governi e i popoli europei fossero così stufi di guerra che davanti a un'ennesima batosta i governi europei appunto avrebbero detto va bene, lasciamo perdere, non vale la pena, lasciamo Napoleone sul trono. E beh, se questo fosse successo appunto per un po' certe cose cambiavano. Agli storici piace sempre pensare che le forze profonde della storia vanno avanti comunque. E quindi diciamo, noi ci diciamo, vabbè, nel medio termine le cose non sarebbero poi cambiate tanto. La Francia a metà 800 è comunque diventata una grande potenza coloniale. A metà 800 è salito sul trono Napoleone III, proprio come se Napoleone I non fosse mai caduto in fondo. Però invece per la generazione che era viva in quel momento sarebbero cambiate tante cose. E appunto, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, sarebbe stata un'Europa più liberale. La stagione della rivoluzione battuta, schiacciata, della restaurazione al potere, dei cospiratori, dei carbonari, ecco, forse non ci sarebbe stato bisogno di questo. Forse Silvio Pellico non sarebbe finito allo Spielberg. Lei è uno storico, professore, ma anche un letterato. Affrontiamo questa questione. In effetti la figura di Napoleone ebbe un enorme eco dal punto di vista, come dire, della suggestione letteraria. Citiamo per tutti Manzoni. Perché secondo lei in quella fase storica Napoleone ebbe così tanto prestigio a livello della memorialistica ma anche della letteratura? Del resto è ben per questo che noi continuiamo a parlare di Waterloo, perché quello è il giorno in cui in un pomeriggio Napoleone si è giocato tutto. Napoleone è il personaggio storico più famoso della storia, probabilmente. Nelle barzellette i matti in manicomio credono di essere Napoleone. Insomma, Napoleone non c'era mai stato prima nella storia, un uomo venuto dal nulla in quel modo, creatore di un impero, un uomo che nel cuore dell'Europa, oltretutto, non nelle steppe dell'Asia, non è un Genghis Khan, è un uomo che rivoluziona l'Europa ed è un uomo che conduce i suoi eserciti in avventure strabilianti, dall'Egitto alla Russia. Noi oggi vediamo giustamente l'aspetto drammatico di queste guerre continue, ma allora erano anche vissute come una straordinaria avventura. E quest'uomo, odiato da molti, forse da tutti, perché era un tiranno, e al tempo stesso amato da molti e sotto sotto forse da tutti, perché per tiranno che fosse, però sulle sue baionette arrivavano il codice civile, l'eguaglianza di diritti, la cittadinanza e insomma la modernità. No, ecco, un personaggio del genere non c'era mai stato, è inevitabile che si sia imposto nella fantasia di tutti e che non sia mai più stato dimenticato. Che poi alla fine non è nemmeno equivalso alla fine della Grande Ère, perché poi la Grande Ère francese si è esercitata nel corso della storia in altri momenti storici, quindi diciamo che quello è un passaggio importante ma non definitivo per far cadere, come dire, questo sentimento portante del modo sì, di pensare, anche vero? Se poi diciamo Napoleone secondo me è un personaggio che va al di là della storia della Francia. Anche in Italia una Waterloo vuol dire una catastrofe, no? Un disastro. Sì. E mentre in Inghilterra hanno dato il nome di Waterloo a strade, ponti, stazioni, perfino città, ecco, in Italia, in nessuna città italiana c'è una via Waterloo, e questo vuol dire che Napoleone è anche un personaggio della nostra storia, non solo di quella francese. Grazie molto, professore, grazie per essere stato con noi. Buona serata.